le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il Partito Democratico perde Venezia e Arezzo al ballottaggio. Risultato non positivo, dicono dal Nazareno. Salvini e Renzi, stiamo arrivando. Immigrati ancora fermi al confine con la Francia, Alfano, le immagini di Ventimiglia sono un pugno in faccia all'Europa. Ipotesi del governo, permessi rapidi per consentirgli di transitare. Salta l'accordo sulla Grecia, nel fine settimana incertezza sui margini di trattativa e scendono i mercati. Milano in questo momento perde 2 punti percentuali, sale lo spread. Mafia Capitale, maxi sequestro per Buzzi, sono 16 milioni di euro, attesa per la relazione sulle infiltrazioni della criminalità in Campidoglio, a ore sul tavolo del prefetto. Nessun accordo sui premi per i risultati. Gli azzurri della nazionale di rugby lasciano il ritiro convocato in vista della Coppa del Mondo. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, effettogiorno@radio24.it se volete scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it durante la diretta, il numero di sms è il 349-238-6666. In apertura la giornata politica che viaggia su due binari, da una parte il tema dell'immigrazione che continua a dominare la scena e le tensioni con l'Europa e con la Francia in particolare, dall'altra i ballottaggi che hanno portato il PD ad una sconfitta storica, quella di Venezia, e a perdere Arezzo, la città del ministro Maria Elena Boschi. Iniziamo proprio da qua, dai ballottaggi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così. Simone ammette la sconfitta Matteo Renzi dopo la perdita di Felice Casson a Venezia. Da un po' di tempo avrebbe detto il premier ai suoi: cerco di spiegare al PD che il centro-destra non è affatto morto, anzi è un avversario temibile, e quando si unisce il centro-sinistra prende Macerata, Mantova, Trani e Lecco, ma pesa la perdita di Venezia, una sconfitta dopo 21 anni di amministrazione di centro-sinistra e di Arezzo, appunto come hai detto tu, la città del ministro Maria Elena Boschi. Anche se il conto totale dei comuni vinti premia il PD, dice Renzi, siamo comunque andati male. L'unica strada per Renzi è accelerare le riforme, perché se ci fermiamo la bicicletta cade. Nel centrodestra invece Silvio Berlusconi esulta, il vento sta cambiando, avrebbe detto l'ex cavaliere suoi, e Renato Brunetta aggiunge: uniti si vince, Renzi a casa. Simone. Sì, Elisabetta, l'altro fronte politico importante resta quello dell'immigrazione, che porta anche a delle tensioni con l'Europa e delle dichiarazioni forti del ministro dell'Interno. Sì, sui migranti comunque Renzi pensa al famoso piano B, ovvero permessi temporanei ai richiedenti asili per consentire di transitare e di varcare la frontiera e quindi circolare in Europa. C'è anche però l'avvio di una trattativa con alcuni stati dell'Unione Europea per un'operazione di polizia contro gli scafisti in Libia e che vorrebbe anche cercare di coinvolgere l'Egitto. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Restiamo sui ballottaggi con l'analisi di Daniele Biacchessi. Il vento di centrodestra soffia dalle città. Qualche segnale era già giunto dalle elezioni regionali che, pur finite 5-2 per il centro-sinistra, avevano registrato il boom della Lega. La diminuzione in termini numerici dei votanti del PD e dei 5 Stelle è un sostanziale calo dell'affluenza. Le comunali sono state invece fatali per il potere democratico. Dopo 22 anni di giunte rosse, Venezia passa all'imprenditore Luigi Brugnaro di centrodestra. Non solo. Le storiche roccaforti della sinistra come Arezzo, Rovigo, Matera si spostano decisamente verso destra. E non bastano le vittorie di Mantova e Lecco per rasserenare gli animi del PD, perché il bottino complessivo è assai magro. Perché è avvenuta questa sonora sconfitta? Per il PD l'errore principale si chiama sottovalutazione dell'avversario. Prendiamo il caso di Venezia. È vero che al primo turno tra l'ex PM Felice Casson e Luigi Brugnaro c'erano più o meno 10 punti di scarto, ma è altrettanto vero che proprio al primo turno Lega e 5 Stelle, poi esclusi dal ballottaggio, racimolavano circa il 30% dell'elettorato, che pare non sia proprio andato al candidato democratico. Ha ragione dunque Renzi quando parla di dura sconfitta e Guerini quando afferma che dai ballottaggi vengono risultati con luci e ombre. Forse già dopo le regionali ai dirigenti democratici sarebbe servita una riflessione più attenta, perché questo spostamento a destra del paese si era già allora avvertito, forte e chiaro, inequivocabile. Così dunque, Daniele Biacchezzi, sentiamo un'analisi di quello che è successo a Venezia. Renzi non ha alcuna idea di partito, come Berlusconi. Le parole sono di Massimo Cacciari, appunto, all'indomani della sconfitta veneziana. Quando sbagli completamente la candidatura, dall'altra parte hai comunque una candidatura forte di rinnovamento, facendo quello che avevo detto di fare un anno fa, si sarebbe vinto tranquillamente. E al primo turno Casson era andato bene? No, è andato malissimo, scherza. Ha preso solo 10 punti di distacco da Bugnaro, che praticamente era appoggiato da Forza Italia, che non esiste più, e si era costruito una propria lista personale, dentro cui ci sono moltissime persone che avrebbero tranquillamente votato un altro candidato di centrosinistra che non fosse stato Casson. Queste ballottaggi per il PD non sono andati molto bene. Questo riguarda una cosa generale, riguarda il fatto che Renzi non ha alcuna idea di partito, crede di poter fare da solo con una corte di fedelissimi, e questo è molto rischioso, molto pericoloso, perché dove non hai alcun radicamento territoriale, le amministrative le perdi. Sta succedendo esattamente quello che succedeva 10-15 anni fa con Berlusconi, che vinceva le generali e perdeva le amministrative. Un'altra, diciamo, difficoltà di Renzi in queste ore è quella della situazione dell'immigrazione. Dico che ha ragione Renzi di battere i pugni sul tavolo a livello europeo. Allora mica possiamo dire a Maroni, Zaia eccetera di prenderseli, no, è assurdo, sono pretese idiote. Il governo deve farsi sentire in tutti i livelli, cioè se i campi profughi dovremmo farli noi, bene, il prossimo anno non pagheremo i nostri contributi alla comunità. E a proposito di immigrazione e di Europa, arriva adesso la notizia, le parole o meglio della portavoce del commissario europeo all'immigrazione Natasha Bertola, quale dice che la commissione è al corrente dei controlli alle frontiere di Francia, Austria e Svizzera con l'Italia e sta verificando la situazione. Ricordo ancora che tutti devono rispettare Schengen e le regole del sistema di asilo europeo. Di tutto questo torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione, parleremo con un esperto di diritto comunitario internazionale nonché esperto di immigrazione, proprio per fare un punto su tutto questo e cercare di capire che cosa sta succedendo e quanto sia regolare l'azione della Francia, che sta appunto bloccando i profughi a Ventimiglia. Intanto, sempre sul fronte europeo, c'è la questione della Grecia che resta in primo piano dopo il fallimento, l'ennesima tornata di trattative nel fine settimana. I mercati oggi sono svegliati con un netto ribasso, il FTSE MIB cede 2 punti percentuali in questo momento, il FTSE share più di 2 punti percentuali, Atene è arrivata a perdere circa il 6% in mattinata, lo spread, a differenza del rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi a 10 anni, è arrivato a toccare i 150 punti e quindi in risalita. Ma lo stato delle trattative e che possibilità ci sono di un accordo lo chiediamo a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, ormai presenza consueta, insomma, per fare un punto su tutto questo. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione? Sì, effettivamente la situazione, come dicevi, è abbastanza complicata perché dopo il negoziato fallito tra Atene e creditori c'è stato un comunicato della Commissione europea che ha parlato di una distanza tra le parti dello 0,5-1% del PIL, l'equivalente di circa 2 miliardi di euro di misure fiscali permanenti su base annua. Atene resiste soprattutto al taglio delle pensioni, un ulteriore taglio delle pensioni e a un aumento dell'IVA e chiede una riduzione anche limitata sul debito. Aristide Tsakoulopoulos, capo dei negoziatori greci a Bruxelles, ha accusato addirittura la controparte di non avere nessun mandato negoziale, quindi di aver perso tempo perché era un prendere o lasciare. Anche il ministro Yanis Drakazakis, che è capo della delega sui negoziati con l'Unione Europea, ha parlato di tagli alle pensioni e questioni appunto di aumenti dell'IVA, rispettivamente sì dell'1%, ma pari al 2 miliardi di euro, ma complessivamente del 2% del PIL, quindi di un 3,6 euro, quindi una fetta molto maggiore. Vittorio, ci aiuti a far chiarezza, quali sono le scadenze a questo punto? Perché ne avevamo una, abbiamo capito che quella vera dovrebbe essere il 30 giugno, è effettivamente quella? Sì, cioè il 30 giugno è quella che, diciamo così, per una questione tecnica, il Fondo Monetario ha consentito a spostare a quella data le 4 rate che dovevano essere pagate, quindi c'è una data che è un versamento unitario di quello che l'Atene deve al Fondo Monetario. Inoltre è un'altra data perché il termine del piano che era stato diciamo così procrastinato di 4 mesi, e entro quella data l'Unione Europea appunto a fine febbraio aveva dato questo tempo massimo per arrivare al compromesso. Però questa mattina il portavoce del governo greco, Sakellaridis, ha detto che anche se dovessero accettare, il governo greco dovesse accettare tutti i punti contenuti nelle 5 pagine del piano dei creditori, c'è il problema che non passerebbe mai in Parlamento perché mancherebbero i voti della sinistra radicale, e quindi ha detto che la situazione è che insomma bisognerebbe, se parole proprie sue, che spera che la ragione, quindi anche da parte dei creditori, ci si renda conto delle difficoltà a far passare un'ulteriore stretta di austerity ad Atene. Quindi si auspica una mediazione entro, non il 18, dove ci sarà naturalmente l'Eurogruppo, poi dovrebbe essere ratificato al meeting dei capi di Stato e di Governo, e entro il 30 giugno i parlamenti avrebbero di Atene, Germania e Olanda, perché alcuni paesi dell'Eurogruppo devono far passare le modifiche, bisognerebbe arrivare entro quella data ad arrivare appunto a chiudere la partita. Quindi esatto. Come vedete, se non c'è una proroga di questa data, effettivamente i tempi sono molto stretti. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Da segnalare anche la presa di posizione dell'influente Hans Werner Sinn, che è il capo dell'istituto economico tedesco IFO, il quale dice che il ritorno alla dracma per Atene è la soluzione migliore ed è quella più sostenibile dal punto di vista sociale, una svalutazione di circa il 50%, dalla quale poi la Grecia potrebbe riprendersi e successivamente Atene potrebbe rientrare, questo secondo l'analisi appunto di Hans Werner Sinn. Dati anche italiani: a maggio torna l'inflazione, l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2014, è comunque una revisione al ribasso delle stime preliminari che segnavano un più 0,2%. Infine il debito pubblico, dati della Banca d'Italia oggi, è aumentato in aprile di 10 miliardi a 2.194, superando il precedente massimo storico a 2.184. Siamo alle inchieste su Mafia Capitale, dovrebbe approdare a ore sul tavolo del prefetto di Roma il rapporto sulle infiltrazioni. Per 6 mesi hanno passato al setaccio gli atti del Campidoglio, in particolare appalti e bandi di gara, e entro domani dovrebbero consegnare il risultato del loro lavoro gli ispettori nominati dalla prefettura di Roma dopo la prima ondata di arresti nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. Ricevuto il rapporto, che avrebbe superato le 1.000 pagine, il prefetto Gabrielli avrà 45 giorni di tempo per decidere se proporre al ministro dell'Interno Alfano lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. L'ex capo della Protezione Civile ha già fatto sapere che si prenderà tutto il tempo disponibile per valutare le carte. La sua decisione non dovrebbe quindi arrivare prima della fine di luglio, e in caso di richiesta di scioglimento la decisione finale spetterà poi al Consiglio dei Ministri. Sul fronte politico, il presidente del Partito Democratico Orfini, commissario del PD romano, si dice sicuro che alla fine lo scioglimento non ci sarà. Il Movimento 5 Stelle chiede invece che la relazione degli ispettori venga resa pubblica, e con le altre opposizioni insiste nel chiedere le dimissioni di Marino. Ad incalzare il sindaco nelle ultime ore è anche la CGIL. Marino deve fare una proposta su come cambiare Roma, e ancora questa non l'ho sentita, afferma Camusso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono ulteriori aggiornamenti anche sull'inchiesta, perché le indagini non si fermano. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per circa 16 milioni di euro riconducibili a Salvatore Buzzi della cooperativa 29 giugno. Enrico Forzinetti ha sentito al telefono Gavino Puzzu, che è colonnello della Guardia di Finanza di Roma. Il nucleo di polizia tributaria di Roma della Guardia di Finanza sta eseguendo il sequestro delle quote societarie, del capitale sociale, dell'intero patrimonio aziendale, nonché delle disponibilità finanziarie di una società, la Sarin Immobiliare SRL. Questa praticamente società possiede praticamente una unità immobiliare molto ampia, perché ha una dimensione di 2750 metri quadrati a Roma, che è destinata a casa accoglienza dedicata a categorie protette, quindi donne, minori, rifugiati, richiedenti asilo, struttura praticamente utilizzata dalle cooperative riconducibili a Buzzi Salvatore. Questa Sarin Immobiliare è rappresentata praticamente da Bugitti e Emanuela. Oltre praticamente alla Bugitti, soci della Sarin Immobiliare sono lo stesso praticamente Buzzi, nonché la cooperativa 29 giugno e Guarani Carlo Maria. Parliamo di sport. C'è uno scontro tra gli azzurri del rugby e la federazione. Un ritiro che in pratica finisce senza neanche scendere in campo. Inizia male l'avventura azzurra in vista della Coppa del Mondo di Rugby in programma a settembre. Sul tavolo c'è la questione premi. Il presidente federale Alfredo Gavazzi aveva annunciato di non volerli pagare, come nelle precedenti edizioni, per la sola partecipazione, ma di essere disposto a versarli in misura rafforzata se si fosse passati ai quarti di finale. I giocatori non avvisati in precedenza di queste intenzioni avevano chiesto rispetto. La proposta avanzata poi dalla FIR consisteva in singoli premi per ogni partita vinta più un'ulteriore somma in caso di problematico passaggio del turno. E così arriviamo a oggi con gli atleti che chiedono una definizione dell'accordo prima di iniziare gli allenamenti. La FIR, il cui presidente sarebbe disposto a incontrare una delegazione ma solo nei giorni prossimi, dichiara interrotto il ritiro. Una brutta pagina che si poteva davvero evitare. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di sentire che cosa succede sulle strade e poi tornare a parlare di immigrazione, ci sono due notizie che vi vogliamo dare. La prima arriva e riguarda l'ex nunzio apostolico Vesolovski, che è stato rinviato a giudizio. La prima udienza si terrà l'11 luglio. I reati contestati, lo ricordiamo, sono detenzione di materiale pedopornografico per quando era tornato a Roma dopo il 2013, abusi sessuali sui minori per quando era a Santo Domingo. L'altra notizia riguardo Omar El Bashir, il presidente del Sudan. Mentre l'alta corte del Sudafrica stava decidendo se arrestarlo su ordine della Corte Penale Internazionale, a quanto si è appreso e a quanto ha riferito la BBC, El Bashir ha lasciato in aereo Johannesburg, dove si trovava per il vertice dell'Unione Africana. Maggiori dettagli e informazioni su queste due notizie appena ne avremo. Intanto ci fermiamo, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi parleremo con un docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Con lui cercheremo di fare un punto sulla situazione degli immigrati e dei profughi, capire se veramente sono lecite le azioni francesi che stanno fermando un centinaio di eritrei al confine con Ventimiglia, e dall'altra parte cercheremo anche di capire se è lecita questa ipotesi che sta circolando, questa ipotesi secondo la quale il governo sarebbe disposto a dare dei permessi temporanei in modo che le persone che arrivano sulle nostre coste poi possano usufruire del trattato di Schengen e trasferirsi in altri paesi. Ne parliamo tra un attimo. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Partito Democratico perde Venezia e Arezzo al ballottaggio, risultato non positivo, dicono dal Nazareno. Salvini si rivolge a Renzi e dice: stiamo arrivando. Immigrati ancora fermi al confine con la Francia, Alfano. Le immagini di Ventimiglia sono un pugno in faccia all'Europa. L'ipotesi del governo: permessi rapidi per consentirgli di transitare in altri paesi europei usufruendo di Schengen. Salta l'accordo sulla Grecia nel fine settimana, incertezza sui margini di trattativa, scendono i mercati, Milano perde 2 punti percentuali, risale lo spread che tocca i 150 punti e ci sono di pochi istanti fa le dichiarazioni del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Dice: l'impegno è di non cambiare rotta, di continuare con l'abbattimento delle tasse anche con la prossima legge di stabilità. Mafia Capitale, maxi sequestro per Buzzi, 16 milioni di euro, attesa intanto per la relazione sulle infiltrazioni della criminalità in Campidoglio, che ora dovrebbe arrivare sul tavolo del prefetto Gabrielli, che poi potrebbe decidere o consigliare il governo per lo scioglimento del comune di Roma. Nessun accordo sui premi per i risultati, gli azzurri della nazionale di rugby, ve lo abbiamo raccontato poco fa, lasciano il ritiro convocato in vista della Coppa del Mondo. Buongiorno al professor Enzo Maria Cervini Lefebvre, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma e che si occupa di temi dell'immigrazione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Buongiorno professore. Vogliamo parlare con lei evidentemente di immigrazione, di quello che sta succedendo. Ci spiega in base a quali norme e perché la Francia può bloccare quel centinaio di eritrei che in immagini, comunque la si pensi, atroci, stanno dormendo sugli scogli a Ventimiglia da 3 giorni? Fondamentalmente la Francia, così come altri paesi europei, ma così come la stessa Italia ha fatto in passato, riesce per casi eccezionali a bloccare l'accordo Schengen o quantomeno a ristabilire il controllo delle frontiere, ponendo quindi le basi per il non passaggio dei migranti che sono sprovvisti di documentazione di viaggio. Quindi di fatto è una sospensione temporanea di Schengen quella che stanno attuando i francesi, o si rifanno ad altri trattati? Beh, assolutamente si rifanno a Schengen e alle capacità di Schengen di porre appunto queste limitazioni temporanee alla libera circolazione delle persone. Come ho detto, è uno strumento che più volte e da più paesi è stato usato nel corso dell'operazione Schengen, se così la possiamo chiamare, e che appunto ripone come base di questa interruzione temporanea norme di sicurezza interna dello Stato, e quindi di per sé non facilita la libera circolazione delle persone, rimponendo il controllo alle frontiere, il controllo passaporti. Sappiamo che appunto le persone per viaggiare liberamente all'interno dello spazio Schengen hanno bisogno di un visto Schengen. Il visto Schengen permette a queste persone di viaggiare liberamente all'interno dell'area, qualora però siano entrati regolarmente. Nel caso dei migranti, i migranti hanno con sé un magari il foglio di richiesta d'asilo, o in alcuni casi nemmeno quello, perché non hanno presentato richiesta d'asilo in Italia, sperando di poterla presentare in uno degli altri stati dell'area Schengen, che per loro è il paese indicato, paese preferito di destinazione. Sì, dove magari hanno un pezzo della loro famiglia. Senta, professore, sta circolando questa ipotesi che il governo, probabilmente anche semplicemente come strumento di pressione nei confronti dell'Europa, sta ipotizzando la concessione di permessi di soggiorno e che di fatto diventano di transito, temporanei, a durata molto breve, che consentono a queste persone di usufruire di Schengen e quindi di andare nei paesi nei quali vogliono andare. Potrebbe essere regolare una cosa di questo genere, o contravverrebbe a qualche tipo di trattato internazionale? Devo pensare che non è la prima volta che l'Italia o altri stati fanno ricorso a questa minaccia. Mi preme dire che siamo a ridosso del prossimo Consiglio europeo giustizia e affari interni oggi e domani, e del prossimo Consiglio dei capi di governo dell'Unione europea, che si terrà il 25 e 26 giugno, una minaccia assolutamente plausibile in qualche modo, ma che vede, a mio avviso, pochissimo fondamento giuridico. E quindi non sarebbe fondata giuridicamente, in sostanza, cioè è una minaccia politica essenzialmente, dice lei? È una minaccia politica, si possono assolutamente trovare degli strumenti normativi che ci concedano la possibilità di dare carte a questi migranti o a questi richiedenti asilo per la libera circolazione all'interno dell'area Schengen, ossia fogli di transito temporanei, che però, devo dire la verità, fino ad oggi non abbiamo mai messo in opera, e quindi richiederebbe comunque una riformulazione dello strumento normativo a nostra disposizione per far sì che questo possa accadere. Un'ultima domanda, professore: quale pensa che possa essere lo strumento per convincere l'Europa alla necessità di dare un supporto, di dare solidarietà? Essenzialmente l'Unione Europea ha con questo nuovo piano, questa nuova strategia sulle migrazioni, già dato una linea guida anche agli stati che ne fanno parte per poter agire a risposta dell'emergenza migratoria. Sì. Devo dire la verità che però appunto questo piano europeo deve essere poi reso attuale e in qualche modo portato a termine da parte degli stati membri. E qui si pone la grande discussione tra il governo italiano e gli altri governi che fanno certo. parte dell'Unione Europea, perché il governo italiano in primis chiede che la strategia europea sulla migrazione risulti obbligatoria per tutti gli stati e che quindi le regole dettate da Bruxelles possano valere per tutti. Mentre invece come sappiamo questo non è avvenuto, insomma. Questo in parte non è avvenuto, in parte non è stato ancora reso obbligatorio perché il Consiglio europeo appunto avverrà solo fra qualche giorno e è lì che in quel momento si dovranno decidere appunto le sorti dell'obbligatorietà della strategia europea. La ringrazio, grazie al professor Enzo Maria Cervini Lefevre dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Abbiamo parlato molto di immigrati, oggi l'Istat ha diffuso dei dati che riguardano l'impatto che hanno sulla nostra demografia. L'Istituto di Statistica descrive la situazione demografica italiana come a crescita zero. Nel 2014 in Italia ci sono appena 13.000 persone in più dell'anno prima. Sui quasi 60.800.000 abitanti, più di 5 milioni sono stranieri, con un incremento di oltre 90.000 unità al 31 dicembre del 2014. Se i residenti si scompongono in base alla loro cittadinanza, la componente italiana è in diminuzione di più di 83.000 unità, seppur mitigata dall'acquisizione della cittadinanza italiana di una parte sempre più ampia della componente straniera, più 130.000 unità circa. Un dato molto preoccupante arriva dal movimento naturale della popolazione, ossia la differenza tra nati e morti. Le 100.000 unità in meno rappresentano un record negativo dai tempi della Prima Guerra Mondiale. In calo anche le nascite, circa 12.000 in meno dell'anno passato, ed in questo caso gli stranieri fanno segnare una diminuzione di circa 2.600 nati. Enrico Forzinetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo per tornare sui temi di Mafia Capitale e sulla legalità a Roma. Ci siamo occupati più di una volta di quello che sta succedendo ad Ostia, dove la presenza della criminalità organizzata è particolarmente pervasiva. Ebbene, nella notte di sabato è stato dato fuoco ad un'edicola. Questa edicola è di proprietà di una segretaria di un circolo locale del Partito Democratico che si è battuta appunto contro questa criminalità. Parleremo proprio con lei e cercheremo di capire che cosa sta succedendo e qual è l'aria che tira in quella zona. Ma prima la pausa e la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La sconfitta del PD a Venezia ed Arezzo al ballottaggio, risultato non positivo, dicono dal Nazareno. Salvini e Renzi, stiamo arrivando. Immigrati ancora fermi al confine con la Francia. Alfano, le immagini di Ventimiglia sono un pugno in faccia all'Europa. Salta l'accordo sulla Grecia nel fine settimana, incertezza sui margini di trattativa e scendono i mercati. Mafia Capitale, maxi sequestro per Buzzi, sono 16 milioni di euro. La borsa. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, ancora un aggiornamento sul tema dell'immigrazione. Arrivano le parole del ministro francese dell'interno Bernard Cazeneuve, il quale dice che bisogna che l'Italia accetti di creare i centri per distinguere i migranti economici irregolari dai rifugiati, e sottolinea il ministro dell'interno appunto che la Francia non ha bloccato le frontiere, come un tema che abbiamo affrontato ampiamente nella prima parte della trasmissione. Altri due aggiornamenti, uno importante che riguarda la politica internazionale, ossia le dichiarazioni che arrivano da Mosca: se gli Stati Uniti dispiegheranno armi pesanti nei Baltici e nell'est europeo, Mosca non potrà che aumentare le proprie forze e i propri mezzi militari nell'area occidentale. Dichiarazione del capo del Dipartimento Ispettori Generali del Ministero della Difesa e dichiarazioni che arrivano in questi minuti. Infine una precisazione, abbiamo dato anche la notizia nei titoli del mancato accordo sui premi per i risultati e gli azzurri del rugby che hanno lasciato il ritiro convocato in vista della Coppa del Mondo. Ebbene, c'è una nota dei giocatori azzurri che dicono che in realtà sono stati loro ad essere stati mandati via dalla Federazione Italiana Rugby. Vedremo come andrà a finire, di certo non è un bello spettacolo. Sabrina Giacobbi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. È segretaria del circolo del Partito Democratico di Nuova Ostia e anche proprietaria di un'edicola alla quale hanno dato fuoco nella notte di sabato. Allora Giacobbi, mi sembra di capire che tutto questo sia collegato a una sua battaglia contro la criminalità organizzata. Soprattutto sulla legalità, sul grande lavoro che sta facendo Marino, il nostro sindaco, e per anni ho sempre combattuto per fare a favore della legalità, tra cui ho fatto anche una manifestazione dove sono scese con me nel quartiere 700 persone, anzi una bella fiaccolata di sera proprio contro queste cose. Ovviamente in questo momento stanno indagando le forze dell'ordine, quindi immagino che dettagli ancora non ce ne siano, però insomma noi abbiamo raccontato qualche volta e forse non abbastanza dettagliatamente qual è la situazione a Ostia, dove c'è un dominio, un certo dominio della criminalità organizzata, no? In questo caso sì, cioè qui siamo un po', ossia è un po' una voce un po' abbandonata e perciò è facile riuscire ad essere un po' la preda di questi personaggi. E comunque sia, noi crediamo che possiamo migliorare tantissimo e poi continuiamo con le nostre battaglie. Continuate con le vostre battaglie in che modo? Con la legalità, certo, non possiamo dire che chi è stato o chi non è stato, perché noi non sappiamo se questi potrebbe essere stato anche un atto balordo da chiunque, però ovviamente il segnale è ben chiaro. Grazie a Sabrina Giacobbi per essere stata con noi. Noi adesso torniamo all'estero perché secondo il governo libico di Tobruk, Mokhtar Belmokhtar, uno dei terroristi più ricercati del Nord Africa, è stato ucciso da un raid aereo vicino a Bengasi, in Libia. I francesi lo chiamano l'imprendibile. Non c'è la certezza della morte del terrorista Mokhtar Belmokhtar durante un raid aereo americano vicino a Bengasi. Era già stato dichiarato ucciso più volte, l'ultima nel 2013 in Mali. Ieri il governo libico di Tobruk ha confermato l'uccisione di Mokhtar Belmokhtar e il colonnello dell'esercito americano Steve Warren ha ammesso che era proprio lui l'obiettivo della missione, la prima del suo genere dopo la caduta di Gheddafi nel 2011. Il Pentagono però non ha ancora annunciato il successo dell'operazione. Secondo fonti islamiste, infatti, il bombardamento avrebbe mancato Belmokhtar, uccidendo invece quattro membri di un gruppo estremista ritenuto responsabile dell'attacco all'ambasciata americana di Bengasi nel 2012. Belmokhtar era l'ideatore della strage di In Amenas, l'impianto di gas algerino, dove morirono 38 ostaggi nel 2013. Sarebbe un duro colpo per il terrorismo islamico nel Nord Africa. Belmokhtar, infatti, era il leader del gruppo Al-Murabitun, affiliato di Al-Qaeda. Recentemente si era parlato anche di un suo avvicinamento all'ISIS, ma non è mai stato confermato. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo tra un attimo.